pietare il mio dolo, desparti l'aglia volo. Quindi va, Madonna, Madonna, Madonna, Madonna, Madonna, Madonna, Madonna, Madonna, soffrirete voi sempre.